Summertime di Elisabetta Fiorito. Benvenuti al meglio di Summertime, le nostre interviste migliori andate in onda durante la settimana e riproposte il sabato alle 16.30 e la domenica alle 8.30. Una puntata tutta dedicata alla musica italiana. Molti sono i nostri cantanti e cantautori in tournée nel nostro paese. Iniziamo da Fiorella Mannoia, che il 14 agosto era a Ripescia in provincia di Grosseto per presentare il suo album Sud, mentre domenica 19 sarà a Monteverde di Boiano. Allora, parliamo subito del tuo nuovo album, no? Intanto, cominciamo a dire che è un album con un titolo che potrebbe far arrabbiare la Lega Nord, ma a noi ci fa molto piacere, intitolato Sud. Perché questo titolo, Fiorella? Beh, perché credo che il Sud si meriti un po' un omaggio. Il Sud in generale, il nostro Sud, come tutto il Sud del mondo, che divide sempre... un triste destino, è sempre stato derubato, saccheggiato, depredato e abbandonato, il nostro come Latino America o come soprattutto l'Africa, per cui meritava, insomma, io ho pensato di dare un piccolo contributo, ecco, un piccolo omaggio. Quindi non è solo il Sud Italia, ma anche il Brasile, l'Africa, però anche la nostra Napoli. Certo, tutto il Sud, perché poi è partito tutto da lì. Io quando ho letto il libro di Pino Aprile mi sono un po' convinta che tutto il disco doveva avere un filo conduttore, e quando ho letto che, insomma, l'Unità d'Italia era un po' diversa, la storia dell'Unità d'Italia è un po' diversa da quella che ci avevano raccontato sui libri di scuola, e quando ho scoperto che il nostro Sud non era un Sud povero e straccione, ma era un Sud opulento, ricco, che di fatto è stato depredato con un grande bagno di sangue, che i briganti non erano dei delinquenti ma erano dei resistenti, insomma, rivedere tutta questa nostra storia appunto mi ha fatto poi allargare l'orizzonte e pensare che tutto il Sud del mondo ha questo triste destino, perché poi peraltro adesso in questi giorni sto leggendo Le vene aperte dell'America Latina, un libro di Edoardo Galeano che parla della stessa cosa, parla di come l'Europa, l'Occidente, abbia depredato, saccheggiato e derubato tutte le risorse del Latino America. Sì, anche perché Pino Aprile è stato proprio ospite da noi e ci ha proprio raccontato quello che racconta nel suo libro Terroni, no? Sì. Anche perché noi siamo vissuti anni e anni e anni con la Lega Nord, che era un po' la nostra spada di Damocle, la spada di Damocle di tutta Italia, che diceva noi paghiamo per tutti. E invece abbiamo cominciato a scoprire che c'è una storia in cui poi non è che è sempre andata così, ecco. No, ecco, che forse chi ha pagato il prezzo più alto è stato proprio il Sud, che poi volutamente è stato lasciato e abbandonato a se stesso. Perché? Perché è convenuto a tutti, alla politica, alla religione, a tutti è convenuto questo. Ecco, Fiorella, però non pensi che adesso sia anche il momento in cui il Sud cominci a pensare di risollevarsi da solo? Perché poi c'era stato lo scandalo della regione Sicilia, insomma, una mentalità che poi alla fine deve cambiare. Ma la mentalità più grande che deve cambiare al Sud è quella che gli hanno insegnato e che deve assolutamente cambiare, quella che hanno scambiato sempre in tutti questi direi secoli, il diritto per il favore. Cioè, dovrebbero cominciare a considerare quello che gli deve essere dato come un diritto e non come un favore del mafioso di turno, del politico di turno, del padrone di turno. I diritti sono diritti, non devono essere confusi con i favori. E tu a un certo punto dai proprio un omaggio, fai un omaggio a Napoli, questa città piena, splendida, piena però di contraddizioni, e scegli un testo addirittura di Titina De Filippo. Sì, beh, questo è stato per me una grandissima soddisfazione, perché questa canzone era stata scritta su questa poesia di Titina De Filippo da molto tempo, ma la famiglia De Filippo non aveva mai voluto darla a nessuno. Io ho provato un'altra volta, cioè io ho provato a chiedergliela per la prima volta, anzi, perché non l'avevo mai sentita. Quando l'ho sentita e l'autore me l'ha proposta, ho detto vale la pena tentare di chiederla. Lui mi ha detto guarda, non ti garantisco perché non l'ha mai voluto dare a nessuno, e questo invece, questo attestato di stima da parte della famiglia De Filippo nei miei confronti è veramente un vanto per me, perché avere la firma De Filippo su un disco che si chiama Sud, con tutto quello che i De Filippo hanno dato alla cultura, al teatro di questo paese, per me è, insomma, è una responsabilità e un grande vanto. E la canzone si intitola Quando va bene. Quando va bene, poi scusate, io mi scuso con i napoletani perché non sono napoletana, e sicuramente io. Penso che tu sia romana come me, quindi sì. Infatti ho chiesto aiuto a una mia amica napoletana che mi ha fatto da coach per cantare la canzone, non so, insomma, sicuramente non sarà perfetta, ma almeno ci ho messo tanta buona volontà per cercare di pronunciare nella maniera migliore. Sì, perché il napoletano è difficilissimo. Beh, come tutti i dialetti. Beh, insomma, il romano è già più facile da imitare, no? Però il napoletano è proprio quasi una seconda lingua. Allora, nel tuo disco c'è anche una collaborazione con Frankie High Energy, quindi sì. Si parla di impegno sociale. Sì, beh, dietro la parola sud, la parola sud si porta dietro sicuramente il problema dell'immigrazione o della migrazione dei popoli, questo è strettamente legato al sud del mondo, poi mai come in questo momento. Per cui io, quando ho chiesto a Frankie di collaborare su questo disco, ho spiegato più o meno quello di cui volevo parlare, e volevo parlare appunto degli invisibili che questi nostri fratelli immigrati che sono intorno a noi vivono insieme a noi, ci passano accanto, ma noi non facciamo finta che, come se non esistessero, non gli domandiamo mai niente, a malapena li guardiamo negli occhi. Per cui, ecco, volevo che Frankie scrivesse una cosa, e io l'ho chiesto a lui perché lui va dritto al cuore del problema, una maniera di scrivere molto diretta, e io non volevo tanti giochi di parole, volevo andarci in maniera pesante su questo argomento, e sapevo che Frankie avrebbe scritto quello che ha scritto. Sono atti di dovere per quel che mi riguarda, almeno io la vedo così. Continuiamo con Ron, che il 15 agosto era a Loano, ma domenica sarà a Palmi, un concerto acustico in cui il cantautore racconta se stesso. Allora, una tournée in tutta Italia. Questa sera suonerai a Loano presso il Giardino del Principe in provincia di Savona. Come sta esatto. andando e che cosa porti? Le tue grandi canzoni? Sì, sì, porto le mie canzoni, ma non solo. Porto un viaggio che dura da 42 anni. Questo mi dà la possibilità di raccontare dagli aneddoti alle cose anche molto mie, molto private, in fondo, no? Un po' un diario di questo tempo passato, attraverso le mie canzoni, però suonate in acustico. Cosa vuol dire? In acustico vuol dire suonate da tre strumenti, insomma. C'è un pianista bravissimo che si chiama Fabio Gangi, Giovanna Famulari che suonerà il violoncello e canterà, e io mi alternerò tra chitarra e pianoforte. Questa cosa mi darà la possibilità di sottolineare tante cose anche a livello poi interpretativo, musicale, eccetera. Le canzoni vedo facendo questi concerti quest'estate vengono fuori in maniera potente, proprio perché c'è poco sotto, ma quel poco è tanto, nel senso che abbiamo studiato molto come interpretarle acusticamente le canzoni. Per cui sono molto felice, perché c'è la gente che è attenta come a teatro, e questa è la cosa più bella che tu possa desiderare, insomma. Quindi tu introduci poi le canzoni attraverso un ricordo magari di quella canzone, sì, come sei riuscito a sì, scriverla. Considerazioni, sai, ci sono canzoni che sono legate a tante cose, ma anche importanti, voglio dire, anche canzoni che magari non sono così famose, non so, canto una canzone che il mondo avrà una grande anima, che non è una canzone così famosa. Beh, insomma, però non è nemmeno sconosciuta, però, io la conosco, no, per esempio. Sì, beh, questo mi fa piacere, altri magari meno, però ecco, raccontare del coraggio di un ragazzo di 18 anni che atterra Londra sulla Piazza Rossa col suo aereo da turismo, a me mi ha dato un'emozione enorme e mi ha dato speranza. Ecco, per cui i giovani del nostro tempo devono essere questi, quelli che hanno grande coraggio. Per cui, ecco, tutte considerazioni che secondo me hanno per me importanza dirle, ma vedo che la gente poi accoglie molto, piuttosto che il mio impegno con la solidarietà, per la SLA, insomma, tante cose che vanno a inserirsi in mezzo alle canzoni suonate e cantate con grande intensità e secondo me è unicità, ecco. E chi vorresti incontrare tra 100 anni, tanto per citare una tua canzone? Tra 100 anni, va, intanto vorrei rincontrare Lucio, il mio amico. Ecco, infatti, perché so che a Ravello avete suonato proprio in suo onore, no? Sì, Ravello quest'anno ha inserito la memoria come tema e per cui mi è stato chiesto di ricordare Lucio e io lo faccio molto volentieri, l'ho fatto qualche giorno fa ed è stato bellissimo. Ho pensato a Lina Sastri che potesse in qualche modo entrare dentro al mio concerto, non solamente a cantare con me Anima, piuttosto che 4 marzo ha cantato anche Caruso, ma abbiamo letto insieme dei racconti di Lucio di una decina d'anni fa e questa è stata una cosa emozionante, bella, perché non mi andava di commemorare Lucio, ma di tirare fuori tutta la sua energia positiva e anche ironica. Quanto ti manca? Ma insomma io credo che manchi a me tantissimo, perché sai, sono di quelle persone, Lucio, io dico sono, hai capito? Perché poi faccio ancora molta fatica a pensare che non ci sia più. Sono di quelle persone che se hai qualcosa dentro da far ascoltare, da dire, eccetera, ecco, chiamavo Lucio perché sapeva capire, era uno che ascoltava. In questo mondo non ascolta più nessuno, tutti parlano di se stessi. E Lucio invece era lì, ascoltava e magari per telefono, anche alle 2, alle 3 di notte, chiamava: senti Lucio sta canzone, senti se ti piace. E così faceva lui con me. E questa cosa ci univa tantissimo, perché c'era una fiducia l'uno nell'altro, c'era veramente un incrocio di due vite così differenti di età e di storia, però in qualche modo perfette. Piazza Grande, che cosa ti ricorda? Ma Piazza Grande mi ricorda un viaggio tra Napoli e la Sicilia che abbiamo fatto io e Lucio. Io avevo solo 17 anni, lui aveva 27, 10 di più, e in mezzo a questo mare meraviglioso, c'è questo sole, era agosto, eccetera, tirai fuori la chitarra e cominciai a strimpellarla e a fare dei la la la la la sugli accordi, e Lucio intervenne e anche lui aggiunse i suoi la la la la fino a quando è venuta fuori una melodia, insomma, venne fuori una canzone. Io non avevo mai scritto canzone e quella fu la mia prima canzone che ho scritto appunto con Lucio. La canzone poi, insomma, Bardotti e Baldassi misero un testo che era Piazza Grande, che era così lontano dal mondo così mediterraneo che invece ha la musica, e Lucio la cantò a Sanremo, fu un grande successo, insomma. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. Summertime. E siamo di nuovo qui con il meglio di Summertime, le nostre interviste migliori andate in onda durante la settimana e riproposte nel weekend. Renzo Arbore era in scena il 16 agosto a Deboli con la sua orchestra italiana, che propone canzone classica napoletana con contaminazioni swing, jazz e soul. Buon pomeriggio Renzo. Sono io in persona, Radio 24, eccoci qua. Allora, ciao, sei reale, ti abbiamo qui con noi. Senti, tu continui a portare i nostri suoni, insomma, questa orchestra italiana gira per l'Italia, per il mondo. Devo dire che 21 anni di concerti è una cifra irraggiungibile. Questo, la gente mi domanda perché non torno in televisione. Perché faccio i concerti? Mi diverto di più, si diverte moltissimo il pubblico, perché naturalmente il concerto è un po' d'arte varia, non c'è solo canzoni napoletane, ma anche canzoni italiane, canzoni della televisione, un po' di amenità. Capite questa parola che significa amenità? Sì, sì, un po', però... Sì, no, perché si molto... dire puttanate, però insomma è meglio dire amenità, Sì, e ma... quindi si parla, dimmi. Ma noi però ti vorremmo in televisione, perché le tue trasmissioni erano così particolari, con questa altra TV, no? E che... hai visto che stanno facendo un sacco di repliche a tutte le ore del giorno e della notte. E sono rimaste nel nostro immaginario la sfida nord-sud, le bellissime canzoni, il materasso, il clarinetto. Grazie, e alcune le faccio in concerto. Ma prima o poi qualche cosa succederà, adesso vediamo i nuovi dirigenti della RAI, però voglio dire, io ho la responsabilità di 40 persone tra musicisti, tecnici, che vivono con l'orchestra italiana, capito? Che è un'impresa di grande successo, era cominciata quasi per gioco, rilanciare le canzoni napoletane classiche che sembravano del passato, sembravano dimenticate o dimenticabili, poi ci siamo accorti che sono eterne, perché dovunque andiamo, nord e sud, vengono applaudite, cantate, ma perfino in città del Piemonte, veniamo da Viareggio, veniamo da Sanremo, capito? E dovunque cantano Reginella, Malafemmena e le canzoni all'estero, quindi effettivamente è una grande soddisfazione per me aver rilanciato la canzone napoletana d'autore. Senti Renzo, tu stai in viaggio ovviamente, perché come abbiamo sentito adesso sei in tournée, ma la cosa che è un po' particolare, no? Che non potresti fare quelli della canzone napoletana, vista che hai fatto quelli della notte, insomma ritornare in TV noi ci speriamo sempre, perché erano così carine le tue trasmissioni. Ma l'altra cosa invece, tu pensi che ci sia che la canzone napoletana oramai possa essere paragonata quasi all'opera, perché sono... Assolutamente sì, guarda, assolutamente sì, mi dispiace che gli artisti napoletani non ancora l'hanno capito, insomma, tranne qualcuno, e hanno le poesie, perché non si tratta di testi. Salvatore Di Giacomo, ma molti altri, Bovio eccetera, hanno scritto delle vere poesie, basta sentirle, tradurle in italiano per capire che andranno certamente studiate in letteratura italiana tra qualche anno, quando si capirà l'importanza, come sta succedendo per De André, come succederà per Dalla, come succede, è successo per Gaber, e quindi, capito, è così. E poi c'hanno le melodie che sono più belle del mondo, perché le melodie delle canzoni napoletane, che i tenori infatti cantano in tutto il mondo, anche quelli stranieri, sono le melodie più melodiose del mondo, e anche quelle allegre sono gioia di vivere, come tutte le canzoni dei paesi del sud del mondo. Senti, tu l'hai però un pochino riattualizzata, la certo, canzone napoletana, no? Perché tu ci hai messo il blues, lo swing, il jazz, cioè, quindi non è quella che si sentiva guarda, alla fine dell'Ottocento a Napoli, nel festival di Piedigrotta. Noi alcune le abbiamo lasciate quasi così, anzi abbiamo recuperato il suono dei mandolini, delle chitarre, i cori che si usavano agli inizi del Novecento, le orchestre che facevano le serenate, e altri invece ci siamo divertiti secondo la lezione di un grande nostro maestro e nostro anche ammiratore, naturalmente si tratta di un maestro ineguagliabile, Renato Carosone. Anche lui ha sposato i ritmi dell'epoca, no? Che erano i ritmi latinoamericani, caraibici, con le bellissime canzoni. Basta ricordare Maruzzella per capire che storio e che capolavoro era. Sottovalutato anche quella, Maruzzella, perché tutti ricordano Carosone allegro di Tu puoi fare l'americano, ma lui ha scritto anche delle bellissime canzoni serie. Sì, noi però ci piaceva quando faceva appunto Tu vuoi fare americano oppure torero, perché spezzava un po' questa canzone. All'epoca era rivoluzionario, no? Diciamo, no, spezzava la rivoluzionaria, perché la è un pende che in giro lui con JJ Di Giacomo hanno scritto Caravan Petrol, è una cosa meravigliosa. Si sono divertiti, anche un altro pugliese si è divertito con le canzoni finali. Pensate a Modugno, di Polignano a Mare, che cantava Pasqualino Maragià, che è un po' come Caravan Petrol, o cantava Io Mamma di Tu, che ha scritto con Riccardo Pazzaglia. Insomma, quelle sono canzoni da incartare e conservare a futura memoria. Quando arriverà un grande intellettuale dell'Università di Napoli che scoprirà che tesoro ineguagliabile sono, e che esistono canzoni che passano di moda e che durano lo spazio di un mattino, e canzoni che rimangono nel portfolio eternamente, come le canzoni americane, come Summertime, come The Man I Love, o come Corcovado, Disaffinato, il brasiliano, insomma, lo devono ancora scoprire. Noi l'abbiamo scoperto 21 anni fa. Un duetto d'eccezione è quello tra Gino Paoli e il pianista Danilo Rea, che si sono esibiti venerdì 17 agosto al Festival di Ravello in Due come noi. Allora, questa sera è una serata tra amici, tra Gino Paoli e Danilo Rea. Due come noi, che insomma, voi vi sedete, cantate, però non è che cantate solo canzoni pop o canzoni jazz, che cosa fate? Ma praticamente è un incontro con qualsiasi tipo di musica. La musica è la musica, non è musica jazz o musica pop o musica sinfonica o classica. La musica è musica, e si può affrontare secondo se stessi in qualsiasi maniera. Cioè, la musica ed è anche libertà, quindi in questo senso tu puoi affrontare la musica, qualsiasi tipo di musica, secondo te stesso come esecutore. Quindi è uno spettacolo che affronta diversi tipi di musica. Visto che siamo dalle parti della Campania, faremo anche molti pezzi dei grandi poeti napoletani, non so, di Bovio, di Giacomo, eccetera, Fiore, eccetera, insomma. E quindi, cioè, sì, è un programma che non è stabilito a priori, proprio perché dipende anche dal contesto in cui siamo. Il contesto può cambiare tutti i giorni, perché il contesto, cioè il pubblico e l'ambiente, dove sei, eccetera. Quindi è quello che in jazz si chiama mood, nel senso che l'atmosfera di quel momento, e naturalmente se tu segui l'atmosfera di quel momento ogni volta cambia. Ecco, voi iniziate addirittura da Una furtiva lacrima di Donizetti, no? Mm-hmm. E poi continuate, quindi proprio l'opera pura, l'Elisir d'amore, poi c'è As Time Goes By, quindi, e poi My Funny Valentine, e addirittura O Sole Mio. Quindi sì, insomma, ci riesce un pochino difficile immaginare quanti strumenti suonano, chi canta per esempio Una furtiva lacrima, perché poi insomma, voglio dire, no? Anche un'aria da tenore. Vabbè, è un'aria da tenore se la vuoi fare da tenore. Il tema è quello, poi lo puoi fare in tante maniere, non è, infatti questa non è la curiosità, obbligatorio, cioè tutto ciò che è obbligatorio è qualcosa che inficia la libertà. Invece io amo la libertà come Danilo ama la libertà, e questo fa di noi un duo che affronta un po' qualsiasi cosa, appunto, secondo se stessi, in completa libertà. Quindi non è il tema che è importante, sì, il tema è importantissimo, perché la musica è quella scritta, non è che sia, non la cambio né io né la cambia Danilo, ma la puoi eseguire in tante maniere. Per intenderci, insomma, Beethoven si può eseguire come lo esegue Rubinstein, oppure si può eseguire come lo esegue Glenn Gould, che lo esegue invece secondo se stesso. Quindi dipende, cioè, dipende che razza di impostazione umana hai. La mia impostazione umana è che nego qualsiasi obbligo, qualsiasi dogma, invece credo nella discussione, nel dibattito, nella libertà personale di esprimersi come si vuole. Ecco, quante persone ci sono sul palco? Solo tu e Danilo Rea? Siamo io e Danilo, punto e basta. Basta, quindi un piano... c'è anche il pianoforte. Un pianoforte ci sarà. Uno o due, perché magari vi sfidate, no? No, sfida assolutamente no. Io canto come canterebbe Danilo e lui suona come suonerei io. Non c'è nessuna sfida, anzi, c'è una volontà di eseguire la cosa nella maniera migliore come viene fuori da due sensibilità che si assomigliano molto. Ringraziamo allora Gino Paoli, che abbiamo sentito insieme a Danilo Rea questa sera al Festival di Ravello, con uno spettacolo che ci ha molto incuriosito, Due come noi, che è una chiacchierata tra amici tra tutti i vari generi musicali con grande libertà. Grazie Gino. Grazie a te. E anche per questo meglio di Summertime è tutto. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Antonella Migliaccio in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Noi ci ritroviamo lunedì alle 16. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.